Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Dare il via alla puntata numero 235 del Soundcheck di Radio 24 dopo aver mangiato, assaggiato e gustato una sfogliatella napoletana ancora croccante e tiepidina è un bell'inizio, mio caro Francesco Tromba. Sì, per una domenica pomeriggio è un grandioso inizio. Perfetto, caffettino leggero, un po' brasilero, che è quello che faccio io, il tuo non mi piace molto, lo carichi troppo, proprio da calabrese, e mangiare una sfogliatella napoletana è proprio un bell'inizio. E vorrei quindi ringraziare non solo per la sfogliatella ma anche per la sua partecipazione e la sua presenza un mio amico, eccellente cantante, chitarrista, compositore, autore, con un album splendido che noi vi consigliamo, appena pubblicato, intitolato Cosmonauta d'appartamento. Ringrazio Gio Barbieri per la presenza. Ciao. Grazie per la sfogliatella favolosa. Da dove arriva? Arriva dalla mia Napoli. Arriva da Napoli, però esattamente chi l'ha fabbricata? Guarda, ti dico la verità, c'è un po' l'imbarazzo della scelta quando bisogna comprarne, quindi insomma non sbagli mai. Io l'ho presa, sono venuto in treno, l'ho presa in stazione, quindi... Ah, quindi è perfetta, sì, tipica, sì, è un sì, po' sì, come l'arancino o l'arancina, come dicono a Palermo, quando prendi il traghetto per andare giù in Sicilia. Allora, Gio, ma mi piace il rapporto che hanno i napoletani con il cibo. Quando vai a Napoli, se tu devi mangiare uno spaghetto a vongole, e dici, ma dove vado? No, spaghetto a vongole devi andare da... quello. Se poi vuoi invece la pizza, quella originale, devi andare da Michele. Oppure assolutamente. No. Anche se ti dico che secondo me c'è un livello, come in tutto il Sud Italia, anche un po' in tutta Italia, insomma, c'è un livello però a Napoli minimo di salvaguardia sotto il quale non si scende, quindi insomma lo spaghetto a vongole, come hai giustamente detto, spaghetto a vongole, spaghetto vongole. O a cozze, dipende, esatto, insomma lo mangi abbastanza bene ovunque, così come la pizza, insomma, vuol dire, se ho un ospite o un personale immediato bisogno di mangiare una pizza, posso scegliere anche la prima pizzeria che incontro e non si non sbaglia. Vado male, no. Senti Gio, va bene, tu hai ormai tanti anni di gavetta, di esperienza da musicista, da autore, compositore, continui a divertirti con la musica e continui a fare delle bellissime pubblicazioni, ma prima di far ascoltare qualcosa dal nuovo disco del quale abbiamo già parlato e che abbiamo già presentato qui al Soundcheck, io chiederei al nostro Francesco Tromba di riassumere in qualche modo la tua figura professionale. Cavolo, cantautore e chitarrista napoletano, dopo aver militato in diverse band della sua città, un suo demo finisce nelle mani di Pino Daniele. Incide il suo primo album nel 2003 dal titolo Fuori Catalogo, e da lì inizia la carriera di un personaggio abbastanza fuori dagli schemi della discografia classica. Il suo stile si contraddistingue per la fusione di testi originali con sonorità vicine alla bossa nova, il tutto tenuto insieme anche dal jazz in sottofondo. Ha creato anche una casa discografica propria che si chiama Microcosmo Dischi. Mai titolo fu più azzeccato, perché ascoltando la musica di Gio Barbieri si ha la sensazione di venire circondati dal suo mondo fatto di emozione, delicatezza, ironia, letteratura e leggerezza, ma tutto con una grande attenzione ai testi. Il suo ultimo disco si chiama Cosmonauta d'appartamento, mi è piaciuto moltissimo e lo considero come uno dei manifesti per la mia battaglia contro il contautorato triste. Non perché non ci siano riflessioni profonde, anche molto intime, ma per come vengono raccontate, sempre con il sorriso sulle labbra. Sempre con il sorriso sulle labbra, però è vero. Bello. Questo bello. Forse proprio perché vieni da Napoli. Sì, si affrontano, me sì, le varie problematiche del quotidiano con il sorriso. Assolutamente sì, perché poi, come dire, effettivamente chi è nato a sud di un certo... di una certa linea, insomma, è abituato effettivamente a sviluppare degli anticorpi contro le difficoltà, contro, insomma, noi insomma, naturalmente ragioniamo per soluzioni e anche insomma la mia musica, i miei dischi in qualche modo sono dischi che suonano, diciamo, ricchi di collaborazioni, come diceva Francesco, di arrangiamenti, però a monte c'è stata la volontà di sempre di gettare il cuore oltre l'ostacolo, perché insomma suonano più ricchi di quanto in realtà le risorse di partenza potevano far sospettare, proprio perché c'è un atteggiamento di generosità da parte di tutte le persone che in qualche modo hanno collaborato su questa musica. Allora io direi di presentare subito una traccia presa da Cosmonauta d'Appartamento, nuovo album per Joe Barbieri, presente qui al Soundcheck con Chiedi alla Polvere. Sanno essere casa per me e per il niente che porto, a nessun porto in cui attraccare, nei segreti degli amanti, bastando stelle polari che non conoscono i galli, ed io mi perdo. Chiedi alla Polvere, da Cosmonauta d'Appartamento, nuovo album per Joe Barbieri, nostro ospite con le sue sfogliatelle napoletane. Sì, non hai portato la tua chitarra, questo mi dispiace, però hai portato le sfogliatelle, e questo è un piacere anche per noi. Senti Joe, allora la tua attività va avanti, sei pronto per affrontare anche una stagione ricca di concerti. Francesco lo ha detto, hai suonato in tutto il mondo con ottimi musicisti, eccellenti collaborazioni, però presto partirai in tour per presentare queste nuove composizioni. Sì, il concerto che è un po' un concerto anteprima, trattandosi di un disco che parla di viaggi sostanzialmente, l'ho voluto, come sempre cerco di fare, nella mia città, partendo da quindi Napoli. Il tour parte da Napoli. Il tour parte da Napoli il 20 maggio, quindi tra una decina di giorni, ed è un po' come salutare sul molo di un porto i propri cari, no? Quindi insomma simbolicamente. Dove suonerete? Suoniamo al Teatro Acacia. Ah, al Teatro Acacia, quindi Joe Barbieri il 20 maggio. Il 20 di maggio, da non perdere, a Napoli. Magari ce la facciamo anche in una passeggiata. Magari perché guarda, no? Guarda, vi prendo in parola, quindi insomma vedete di organizzarvi. Cerchiamo di organizzarci. Allora, ti dicevo prima a microfoni spenti che il disco a me è piaciuto tantissimo, proprio perché hai puntato molto sulle composizioni e non hai utilizzato degli arrangiamenti pomposi, ma questo mette in evidenza anche il talento e la bravura dei tuoi collaboratori. E c'è un altro signore, un grande maestro di musica brasiliana, che è Gilberto Gil, che sicuramente conosci e apprezzi, che ultimamente ha pensato bene di celebrare i fasti della bossa nova di un tempo e del samba con un disco minimal, dove lui si è divertito con la sua chitarra e la sua voce, un percussionista, ma è venuto fuori un grande risultato, un grande prodotto. Ti faccio ascoltare un classico della bossa nova, Opato, per la voce di Gilberto Gil, qui al Soundcheck di Radio 24. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quen, quen, olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, e o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. Soundcheck. Il suono della musica. Io so, tu sai che dove sto tu stai. Sia benvenuta la tua compagnia dentro l'abbraccio di un'altra bugia. Tu sai, io so che dove andrai io andrò. Trema la voce, ti accorgi così, ti accorgi che il mondo è troppo per me. Io scendo qui. E qui Gio Barbieri incontra Peppe Servillo in Tu sai, io so, sempre dall'album Cosmonauta d'appartamento. Perché ha intitolato l'album Cosmonauta d'appartamento? Noi quando l'abbiamo presentato la prima volta qui al Soundcheck ho immaginato l'autore in assenza di gravità nel suo appartamento. Le ragioni che mi hanno naturalmente portato a scegliere questo disco sono tante, tra cui questa. Poi c'è la mia patologica pigrizia che mi porta ogni qualvolta posso, insomma, a vivere molto la mia casa. E da lì. Quindi sei pigro quando sei a casa? Sì. Che fai? Ciondoli con la chitarra dal letto al divano? Sì, molto il divano, insomma, che addirittura, insomma, ho cercato di mettere in copertina. Quindi la mia casa diventa in realtà un punto dal quale fare dei viaggi interstellari con la fantasia. E poi, insomma, è anche un po' una piccola riflessione su quella che è il paradosso dei tempi moderni, no? In cui abbiamo la percezione illusoria di essere di poter essere ovunque con un cellulare che appunto, insomma, essendo illusoria, in realtà ci toglie il gusto di essere dei reali viaggiatori che si sporcano le scarpe, che fanno il percorso per intero, che sbagliano strada, che devono tornare indietro. E quindi, insomma, è un invito, un monito anche a me stesso, insomma, di non dimenticare mai questo insegnamento. E tu, da artista curioso quale sei e da viaggiatore multimediale, quanto utilizzi la tecnologia anche per la tua musica? No, ma la uso tanto, perché a parte, insomma, un diploma in informatica, insomma, a parte quello, ma ovviamente la uso tanto. Però poi fondamentalmente sono un analogico, i miei dischi sono acustici, per cui molto spesso anche gli stessi strumenti sono strumenti analogici che uso, quindi tutto poi finisce in un collo d'imbuto di realtà, di realismo al quale non riesco a rinunciare. Ecco, tu sei un artista indipendente e hai creato la tua etichetta, la tua casa discografica, proprio per poter gestire tutti gli aspetti che riguardano la tua carriera personalmente. Tempo fa abbiamo parlato anche con esperti di marketing che consigliavano ai giovani artisti proprio di intraprendere questo tipo di percorso, perché oggi è molto difficile poter approdare a una multinazionale che crede nelle tue possibilità e quindi possa investire denaro. Tu fai questo da tempo, e come diffondi la tua musica, come la promuovi? A parte il fatto che sei qui in radio, certo, che è sempre una bella cosa. Certo, no, chiaramente una serie di passaggi sono, tra virgolette, obbligati, piacevolmente, lasciamelo dire, in alcuni casi come quello di oggi. Per il resto, io credo che oggi più che mai valga una cosa, la proposta, cioè quello che vai a immettere, diciamo, chiamiamolo, nel mercato. Se c'è una proposta che in qualche modo la gente reputa interessante, c'è bisogno di molto poco per farla arrivare, perché la gente ha tutti gli strumenti per intercettarla e eventualmente pian piano interessarsene. Ecco, che poi la cosa più importante per noi artisti è scrivere una bella canzone. Quello è fondamentale. Assolutamente. Ti rubo proprio veramente 30 secondi, anche meno, per dirti che questo disco, a differenza, insomma, non a differenza, ma molto più che i miei dischi precedenti, è stato basato proprio su questo. Io sono stato, come dire, nazista con me stesso nel fatto di scegliere innanzitutto 11 buone canzoni. Poi da quel momento in poi la produzione, l'arrangiamento, la scelta artistica, insomma, poteva essere discussa e valutata con serenità, però quello che su cui non ho ritenuto di lesinare è proprio il fatto di avere delle buone canzoni. Io ho una domanda. Sì. Hai detto che dobbiamo tremare? No. Okay. Hai detto che questo tuo disco lo consideri come un disco di formazione. Per quale motivo? Visto che comunque il tuo settimo, ottavo disco, se non sbaglio. Sì, è un disco di formazione perché rispetto ai dischi precedenti ho rimescolato un po' le carte, anche produttivamente, perché poiché voglio dire, mi occupo della produzione artistica assieme ad Antonio Fresa, che è un mio collaboratore diciamo di lungo corso, però insomma ho rismontato quelli che sono i canoni con cui mi approccio alla produzione, quindi è venuto fuori un disco, come dicevi tu prima, probabilmente non voglio dire più felice, ma sicuramente più carico di energia, e questo credo che sia anche un po' il frutto dell'aver scavallato le colonne d'Ercole dei 40 anni, quindi di aver voluto un po' mollare il colpo in positivo e senza preoccuparsi delle conseguenze ideologiche o meno. La classe di Joe Barbieri in La matematica di un sentimento al soundcheck. Tutto ricomincia la gloria della scienza perfetta che sta dietro un bacio stampato a memoria, a questo mio sottile sapore di afferrare l'incanto di quel meccanismo che innesca il tuo cuore. E dimmi tu, hai fame tu? Soundcheck, yes. Il suono della musica. Ma tu guarda qui che casa, che casa, che cosa che rida, che io pianga, che io rida, è il posto per me. Ma tu guarda qui che casa, che casa di noce moscata, accada quello che accada, io voglio tornare. Accada quello che accada, io voglio tornare. Accada quello che accada, io voglio tornare. E questo era Cosmonauta d'appartamento, il brano che dà il titolo a questo nuovo lavoro di Joe Barbieri, nostro ospite qui con la partecipazione di un musicista brasiliano strepitoso, veramente un talento assoluto che noi abbiamo conosciuto con Stefano Bollani, perché hanno registrato anche loro un disco in duetto dal vivo, quindi con Hamilton Giollanda, che suona questo strano strumento che in qualche modo ci riporta a Napoli, perché il bandolim è una via di mezzo fra il mandolino e il banjo. E quindi voglio chiedere a Gio, come mai tu che vieni da una città dove il mandolino è un'istituzione, poi ti sei hai pensato di richiedere la collaborazione a un musicista brasiliano con il suo bandolino? Ma perché innanzitutto questo è un scioro, quindi è vero, questo è partiamo, vero, questo è uno sciorigno tipico brasiliano, quindi partiamo dal fatto che il genere musicale di questo brano, che insomma io volevo assolutamente scrivere un short nella mia vita dopo essermene innamorato guardando Brasileirinho, che è un film di Kauris Maki, se non ricordo male, ma non ci giurerei, è uno, comunque un nome finlandese, svedese, insomma con molte K. Però dopo averlo visto ho detto prima o poi un sciorro devo scriverlo. Quando mi è capitato con questa canzone ho pensato immediatamente a Hamilton di Olanda, che ho conosciuto, come dicevi tu giustamente, attraverso la sua collaborazione con Stefano. E però in questo brano non c'è soltanto lui, perché abbiamo hai sentito che c'è una parte corale, sì. E in quella parte praticamente quella parte è composta dai contributi di una serie di persone che in tutto il mondo, dalla Corea, dal Giappone, dagli Stati Uniti, dall'Europa, ci hanno mandato una loro traccia vocale cantata su una falsa riga di un canovaccio che io avevo stabilito, e che si sono registrati in autonomia con il proprio cellulare, con il tablet, con il microfono. Tu che hai messo a disposizione una traccia con un clic e poi hai sincronizzato le partecipazioni. Esattamente. Ma fantastico. Quindi tutto questo insomma mi sembrava perfetto per concludere. Fra i credits e le note di copertina hai riportato i nomi di tutti. Esatto, sì. Meraviglioso. Beh, una grande idea, Sì, una grande idea anche per condividere ulteriormente la propria musica. Ma sì, perché oggi è veramente nell'epoca della condivisione, quando hai la possibilità realmente di portare l'ascoltatore che non, che da, dalla posizione appunto di ascoltatore a quello di personaggio attivo è meraviglioso. Insomma, io se ho questo uno spazio per poterlo fare, lo faccio sempre molto volentieri. Beh, è sempre laureato in informatica? Eh sì, tra l'altro per quanto è informatico mi ha chiamato con WhatsApp quando siamo venuti insieme qui. Senti Joe, Cosmonauta d'appartamento lo possiamo scaricare senz'altro da internet, presente su iTunes. Come hai organizzato la distribuzione dell'album? Ma in maniera molto canonica, se si trova. Quindi fisicamente si trova in giro nei negozi? Fisicamente si trova, perché comunque esiste ancora. Il mio pubblico, insomma, è un pubblico, diciamo, abbastanza adulto, quindi abituato ancora all'oggetto fisico, per quanto insomma sia disponibile su iTunes, non su Spotify. Su Spotify ci sono solo 3 brani e vi spiego con tutto il cuore il perché. Perché fare un disco, per quanto voglio dire, i tempi e la tecnologia vengano incontro, costa tanto. Sì. Ed è impensabile per un indipendente, voglio dire, regalarlo, anche perché al di là di tutto quello che si racconta in giro, quello che ritorna dal digitale tipo Spotify è veramente risibile, veramente ridicolo. È ridicolo, sì. Quindi, ma ci sarà anche una pubblicazione su vinile, così come è avvenuto per i dischi precedenti, perché anche qui esiste una quota di persone che amano ancora questo supporto, insomma io per primo, quindi insomma ce lo regaleremo un po' da una tiratura limitata. Quali sono stati e quali sono per te gli artisti di riferimento del tuo background musicale? Fra questi io so che c'è sicuramente Chet Baker, e poi spiegheremo anche perché. Assolutamente, mi adoro il modo di cantare Chet Baker, il modo di scegliere gli spazi in cui intervenire, quindi anche il silenzio, come gestisce il silenzio Baker. Quindi immagino che questa domanda sia per introdurre un disco che ho pubblicato due anni fa, che si chiama Chet Leaves, perché è un disco insomma realizzato non in fretta, ma in maniera molto spontanea e naturale, quando mi sono accorto che cadevano i 25 anni della scomparsa di Chet Baker. Per cui sì, ho chiamato Antonio Fresa, che abbiamo già citato prima, al pianoforte, e Luca Aquino alla tromba, e abbiamo registrato questo disco. In più abbiamo, tornando alla passione per il Brasile. Esatto, insomma, ho chiesto a Marzio Faraco di intervenire in un brano, a Stacy Kent in un altro, a Nicola Stilo, bravissimo flautista, poi collaboratore storico di Chet Baker. Esatto, quindi insomma anche ideologicamente c'era questo legame, perché poi insomma il disco era incentrato sì sul repertorio di Chet Baker, che magari conosciamo di più, ma anche sul suo legame con l'Italia. Tu hai citato Marzio Faraco, che è un artista brasiliano residente a Parigi, credo che sia ancora lì. Io l'ho conosciuto diversi anni fa, gli feci un'intervista e mi disse una cosa molto divertente, che voleva studiare pianoforte, ma la mamma gli disse: guardi Marzio, il pianoforte purtroppo non sta bene a casa con l'arredamento, dovrei spostare il divano, la cosa non mi va. E quindi poi Marzio Faraco prese in mano la chitarra, strumento che conosce benissimo e sul quale scrive le sue composizioni. Allora, prima di ascoltare la tua collaborazione con Marzio Faraco per questo album dedicato a Chet Baker, direi di presentare Marzio Faraco con un suo brano intitolato Saudagi, quando dà qui al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Bye. Joe Barbieri qui con Marzio Faraco per Chet Baker, ma anche il Brasile che non manca mai nella tua musica, una versione bossa nova di But Not For Me, un classico del jazz proposto proprio da questo album intitolato Chet Leaves di un paio di anni fa. Ma vi ricordo che Joe Barbieri è presente nei negozi di dischi ma anche sulle piattaforme digitali con Cosmonauta d'appartamento, album che noi vi raccomandiamo, veramente una piccola perla. Sì, è assolutamente da non perdere per questa stagione. Joe, io ti ringrazio tantissimo per la tua presenza, spero di vederti presto, anzi dobbiamo vederci più spesso. Più spesso, e poi ti ricordo il tuo mezzo impegno a venirmi a trovare il 20 maggio. Assolutamente, il 20 maggio saremo, me lo auguro, salvo altri impegni o concerti, perché facciamo anche questo lavoro, certo. Grazie a Dio, a Napoli, al Teatro Acacia. Al Teatro Acacia, sarai lì con la tua band, che è una band storica che ti accompagna, ormai è una famiglia anche la tua. Assolutamente, anzi in realtà per questa tournée sarà anche un po' allargata, perché saremo in 7 sul palco, quindi insomma un bel impegno. Allora ti auguro ancora tanta musica, bei concerti Igualmente a te. Grazie, sei gentilissimo. Grazie a Francesco Tromba. Francesco, noi restiamo qui perché poi torniamo in onda a partire dalle 19:15 per la seconda parte del soundcheck, quella un po' più jazz. E quindi a tutti voi buon pomeriggio, grazie ancora a Joe Barbieri, ci sentiamo più tardi, sempre qui su Radio 24. Sound check, il suono della musica. Di Gegè Telesforo. Buonasera a tutti da Gegè Telesforo, buonasera al nostro Francesco Tromba. Buonasera. Sempre pronti qui dal Groovemaster Studio per la seconda parte del soundcheck, la prova del suono di Radio 24 di oggi. E come sempre la seconda parte è dedicata al suono più jazz, agli appassionati di jazz e forse alla nostra musica preferita. A me piace tutta la musica, però poi quando ho l'occasione di tornare a ascoltare su CD, quindi in versione rimasterizzata, i vecchi vinili di papà, io mi emoziono sempre. Sì, anche se devo dire i vinili non moriranno mai, secondo me, perché si ha proprio la sensazione. Quello no, di avere... e lo abbiamo raccontato più volte, sì, che sì. Per esempio in questo momento forse c'è più attenzione nei confronti del vinile che del CD, che pare sia un supporto quasi in via di estinzione. Sì, perché comunque il vinile regala quell'emozione in più che il CD non dà. Emozione analogica. Sì, ma anche sonora. Anche, sì. Sì, se è un grandissimo hi-fi senti proprio la differenza rispetto sì, il suono il caldo il... Abbiamo fatto anche una discussione qui su Radio 24 su questo tema, ma sì, è inutile tornare. Andiamo avanti. Comunque è bello poter rivedere in versione CD, riascoltare in versione CD, quindi con il suono rimasterizzato e pulito, anche questo vecchio vinile che ha come protagonisti due campioni di jazz, e qui ce lo dimostrano con un classico blues in ritmicamente uno shuffle che tutti i batteristi devono saper fare, cioè se non sai fare bene lo shuffle non puoi suonare la batteria, secondo me. Vabbè, è inutile che ti metti che a suonare tu voglia la batteria. Fare rock jazz se non sai fare lo shuffle per bene, è meglio che stai a casa. È giusto così, sono inflessibile su questa cosa. Assolutamente. E soprattutto devi conoscere il blues, che è la prima struttura che un musicista deve conoscere. Anche i musicisti di musica classica devono conoscere il blues, conoscerlo, amarlo, metabolizzarlo e diffonderlo. Beh, forse quelli di musica classica sono intransigente su queste cose, mio caro Tromba. Allora veniamo ai nostri campioni. Si tratta del sassofonista tenore Gene Emmons, che oggi viene celebrato dai sassofonisti della nuova generazione, intanto per una voce davvero tenorista e poi una padronanza e un controllo proprio del fraseggio che fa venire i brividi. Quindi Gene Emmons accompagnato da un organista eccezionale che non è Jimmy Smith in questo caso, ma Brother Jack McDuff. campione di blues anche lui. E il brano che vi voglio presentare si intitola Twisting the Jug, da questo CD che ci viene riproposto proprio adesso, una pubblicazione in origine del 1961, album registrato a novembre del 61. Io avevo, beh, facile, un mese. Avevo un mese e questi suonavano già così. Che meraviglia! Questo è il Soundcheck Radio 24, Gene Ammons con Brother Jack McDuff in Twisting the Jug. Come sempre una lezione dei grandi maestri, Gene Ammons e Brother Jack McDuff qui al Soundcheck di Radio 24, un blusacchione super shuffle da imparare a memoria. Queste sono lezioni tromba, mi raccomando. Assolutamente, tutti i musicisti, anche i ragazzi dovrebbero ricominciare. Soprattutto i ragazzi, soprattutto i ragazzi. Allora, sì, perché i ragazzi fanno questo, ascoltano le cose contemporanee e poi piano piano devono fare un percorso a ritroso, sì, per scoprire la meraviglia, per capire da dove viene Brad Meldau. Non puoi poi non ascoltare anche Art Atom, Oscar Peterson e tutti gli altri. Ci vogliono dei bravi insegnanti che facciano capire però da dove partire. Però fortunatamente ci sono dei bravi musicisti oggi che insegnano nei dipartimenti di jazz dei conservatori. Degli eroi, dai. Allora, da Gene Ammons a Kenny Garrett, però prima di suonare qualcosa dal nuovo album del sassofonista che noi abbiamo conosciuto e apprezzato quando giovanissimo faceva parte della ultima formazione di Miles Davis, quella un po' più funk, direi di annunciare anche qualche concerto per la prossima settimana. Mi sa che c'è ancora qualcosa da vedere questa sera. Che ore sono? Più o meno un quarto alle otto, quindi si fa ancora in tempo ad andare all'ultima serata del Ravenna Jazz Festival. Sì, è la penultima, però diciamo penultima. L'ultima con un grande nome che è Gregory Porter, sarà al Teatro Alighieri. Eh sì, è stata una bella edizione dedicata alle grandi voci. Sì, c'erano anche Didi Bridgewater, sua figlia China Moses, Diane Reeves, Sarah Jane Morris, quindi un grandissimo festival. Quindi fate ancora in tempo, se vi trovate in zona lì a Ravenna, andare a seguire il concerto di Gregory Porter, un colosso fisicamente e vocalmente. Un orso buono. Un orso buono. Allora, dicevamo, per ora, poi annunciamo gli altri più tardi, okay, perché voglio andare alla musica con Kenny Garrett, uno dei miei sassofonisti preferiti, anche un bravissimo compositore e arrangiatore, e questa è l'ultima fatica per lui intitolata Pushing the World Away, il brano bellissimo Home Sun, Kenny Garrett al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Qui è facilissimo riconoscere il trombettista, il suono della tromba in persona, Bo Plicity, composizione di Clio Harry per la tromba di Miles Davis, il re del jazz, lo posso dire, cioè the king of jazz è sempre stato considerato Louis Armstrong, forse Miles Davis potremmo definirlo l'innovatore, lo sperimentatore, il genio. il viceré, quello che era il viceré. Miles Davis al soundcheck in Boplicity, brano che troverete in un album storico, The Birth of the Cool, un album che ha cambiato le sorti del jazz dopo il periodo bebop e quello, insomma, se ci stavamo affacciando quasi nell'era hard bop, arrivò questo capolavoro realizzato da Miles Davis con la complicità di due eccellenti arrangiatori come Jerry Mulligan e Gil Evans. E tra l'altro la cosa bella è che il disco è stato realizzato nel 1949 ma poi pubblicato molti anni dopo. Sì, nel 57, quasi 10 anni dopo. Nel 57, per la Concorde, credo. Sì, e poi era una serie di coincidenze strane, cioè in quel periodo Miles Davis aveva sostituito Dizzy Gillespie nella band di Charlie Parker. Gil Evans era venuto a conoscenza proprio di Charlie Parker, voleva fargli registrare un disco con un grande organico, però Charlie Parker era concentrato più su se stesso e sulle sue ali di ottone, no? E anche quindi, sui suoi vizi. Però Gil Evans conosce Miles Davis, capisce proprio che è un grandissimo interprete, oltre che trova terreno fertile in Miles Davis, perché lui accetta di registrare questo disco con un organico più ampio di quello con cui era di solito abituato a registrare. E quindi nasce così Birth of the Cool, album che viene riproposto su CD masterizzato, quindi non perdetevi questa perla, ci sono composizioni immortali e soprattutto il suono infinito di Miles Davis, che continuerei a celebrare qui al Soundcheck subito dopo aver annunciato qualche altro concerto. Sempre Gregory Porter sarà anche il 12 al Teatro Comunale di Vicenza per Vicenza Jazz. Invece lunedì 11, cioè domani, ci sarà anche Arturo Sandoval, sempre al Teatro Comunale di Vicenza. Che inizia a suonare nella big band di Dizzy Gillespie. Vedi le connessioni. Che, sì, che fece un concerto a Cuba e lo fece espatriare proprio ad Arturo Sandoval. In maniera legale? Sì, viene raccontato anche in un film. In maniera illegale proprio. Così. Clandestino. Da clandestino, esatto. Il 12 Mario Biondi al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il 15 al Palabam di Mantova, mentre il 16 sarà al Nuovo Teatro Carisport di Cesena. Il mercoledì 13 Diane Reeves sarà al Museo del Violino di Cremona. Sì. E il 14 Jan Garbarek Group insieme a Trilok Gurt, un batterista e percussionista, sarà favoloso, suonava con gli Oregon, eccezionale Trilok. Sì, e il 15 sarà anche a Piacenza, al Teatro Municipale. E allora torniamo a Miles Davis, mio caro Francesco, perché oltre a Birth of the Cool viene pubblicato anche Ascenseur pour l'Échafaud. Il mio francese fa schifo, vale a dire Ascensore per il patibolo, dal celebre film di Louis Malle. Anche qui parliamo di un'operazione cinematografica e discografica degli anni 50. Sì, 1957. 1957, quindi più o meno tutto in quel periodo si ritrova Miles Davis, pubblicazione di Birth of the Cool, e poi si sposta a Parigi dove improvvisa, guardando le immagini di Louis Malle, la colonna sonora per questo film. Ora, Ascenseur pour l'Échafaud viene riproposto su CD ancora una volta, però poi all'interno del CD, siccome soltanto con la colonna sonora avrebbero riempito soltanto mezz'ora di CD, per completare il tutto hanno inserito delle bonus track. E allora quando io mi ritrovo bonus track con Julian Conobal Adderley, John Coltrane al tenore, Bill Evans al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria, 1958, che cosa potevo fare? Suonarlo. Suonare qualcosa di con questi colossi del jazz. Quindi Miles Davis, e questa è una delle sue composizioni più belle, romantica, splendida, e poi con i soli di Coltrane, Conobal Adderley, attenzione, qui stiamo parlando veramente di capolavori immortali. Miles Davis from Dance qui al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. un'operazione originale guidata dal maestro italiano Enrico Rava con la sua tromba e un drappello di eccellenti musicisti italiani per gli arrangiamenti di Mauro Ottolini a celebrare Michael Jackson. Sì, il brano era Blood on the Dance Floor, tratto da Rava on the Dance Floor, una pubblicazione per la ECM, che dà la possibilità a Enrico Rava di rendere così il suo tributo in chiave jazz a The King of Pop. Dopo aver appreso della sua scomparsa, questo ce lo racconta proprio Enrico Rava nelle note di copertina, torna a casa e la sua compagna aveva in airplay continuo la musica di Michael Jackson e quindi, viaggiando nei giorni successivi in macchina, ha ascoltato talmente tanto Michael Jackson da pensare bene di regalargli un tributo in chiave jazz. Un'operazione che però fortunatamente viene riproposta dalla ECM su CD, quindi una pubblicazione discografica, però sono stati fatti pochi concerti. Purtroppo io me lo sono perso, è una mancanza grave da parte mia. Allora, Rava on the Dance Floor, e approfitto per salutare Enrico Rava, che è stato carinissimo perché mi ha spedito personalmente anche questo libro molto interessante, con il quale ci racconta gli incontri con musicisti straordinari, la storia del mio jazz, Enrico Rava per la Feltrinelli. E approfitto per fare l'ennesimo invito in diretta a Enrico Rava. Enrico mi ha anche chiamato, abbiamo parlato e mi ha detto: Gigi, non mi inviti mai al soundcheck. Ma come, Enrico? Io ti invito, sei tu che non vieni. Allora lo ripeto, Enrico, se ci stai ascoltando, se c'è qualche amico di Enrico in giro, per favore passategli il messaggio, l'informazione, l'invito. Enrico, ti aspettiamo al soundcheck, e fai anche presto, perché se non vieni tu poi mi costringe a invitare Fiorello che farà la tua imitazione. Ecco. Beh, chiamiamoli tutti e due. Chiamiamoli tutti e due. No. Ok, va bene. Allora, ci sono altri concerti velocemente, perché poi voglio salutare un altro grande maestro italiano che in questo caso però è già stato ospite del soundcheck. Sì, allora il 14 maggio ci sarà l'anteprima della UM Jazz Festival a Milano. Si esibiranno 8 band selezionate per il Maletto Prize, un premio per delle giovani band che vinceranno chi vincerà un contratto discografico. Si esibiranno però nel circuito dell'Isola Jazz Club, quindi controllate su internet dove si esibiranno di preciso. Poi sicuramente dovremmo ricordare anche i tuoi di concerti, che suonerai il 16 a Foggia al teatro. Sì, diamo il via proprio anteprima nazionale del tour di Sound Zero con la band a Foggia al Teatro Umberto Giordano, e sono anche un po' emozionato. Quindi anche tu, come Gio Barbieri, parti dalla tua città. Beh, comunque parto da un teatro che io frequentavo da bambino, poi è stato chiuso per un bel po', adesso lo hanno completamente restaurato, rimesso a posto, omologato e pronto anche per me. Che grandissimo, bello. Dai. E poi sabato 23, sabato prossimo, sì, sarai al Blue Note di Milano. Sì, ci spostiamo al Blue Note di Milano e quindi ci organizzeremo anche noi per realizzare la puntata a ridosso del concerto, ma in qualche modo faremo, lo sai. Quindi farai un po' di ritardo al concerto. Ma no, no, quello non è ammissibile, al Blue Note sono molto rigidi. Allora, chiudiamo la puntata di questa sera con Enrico Pieranunzi, che io abbraccio, saluto, ringrazio per tutto quello che fa ormai da tempo con il suo pianoforte e per il jazz italiano. C'è un album bellissimo, le composizioni del nostro Enrico Pieranunzi rivisitate in chiave orchestrale con la Big Band, la Brussels Jazz Orchestra, un disco splendido con Bert Joris alla tromba, e quindi un album che ancora una volta ci dà la possibilità di approfondire la conoscenza di uno dei migliori pianisti del mondo, uno dei grandi musicisti italiani. Enrico Pieranunzi, una sua composizione intitolata Persona, dal vivo. E a tutti voi buonasera e buona musica e buona settimana da Gio Telesforo e da Francesco Tromba.